Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Dai qui, Bomarzi, dammi la copertina del disco. Lo so che ti piace. A te quasi non ti interessa più il suono, la musica, la ripresa del progetto discografico. Adesso ti interessa la copertina perché c'è una bella ragazza. Questa è la verità. Sono un po' triste oggi, sai? Sì, ti vuoi tirare su il morale. Buona domenica a tutti voi da Giorgio Telesforo. Buona domenica al super ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, operativo come sempre qui nel Groove Master Studio per il sound check, il suono della musica. E buona domenica anche a Francesco Tromba. Eccoci qui. Ciao a tutti. Tu sei riuscito ad ascoltare la signorina Bria? No, però ho visto le foto. Sono preparato, tu? Sì. Ma ragazzi, ma sul serio, ma voi che vi siete messi in testa? Alla fine è più da vedere questo disco che da ascoltare. No, invece ti dico, il disco è da ascoltare. Vi sto parlando di questa giovanissima interprete, nuova protagonista della scena jazz internazionale, canadese di origine, che si chiama Bria Skomberg, quindi canadese, prodotta da un producer d'eccezione come Matt Pearson, che ha messo a disposizione di questa ragazza un organico di tutto rispetto, con dei numeri uno del jazz americano, e l'album è molto ben realizzato. A me non è dispiaciuto. Poi non ha la maturità di un veterano alla tromba, ma tu che fai tromba di cognome dovresti sapere come stanno le cose, no? Io vorrei tanto andare a un suo concerto perché è proprio bella da vedere pure. Ragazzi, secondo me voi sul serio vi state deragliando proprio. No, però oltre a questo ho letto che secondo la rivista Downbeat Magazine è considerata tra le 25 migliori nuove proposte del jazz, nel senso per il futuro è tenuta d'occhio. Ti dico una cosa, per quanto un musicista possa convocare grandi artisti in una produzione discografica pagandoli, e quindi di solito quando uno paga ottiene quello che vuole, è difficile però ottenere musicisti del calibro, che ne so, del pianista Aaron Goldberg o un veterano come Gil Goldstein, oppure chi altro c'è, Sullivan Fortner, meraviglioso, Scott Coley al contrabbasso. Insomma, ragazzi, stiamo parlando veramente di una grande produzione alle spalle. Anzi, no, non è bello dire alle spalle di questa bella ragazza. No? Però poi se sei bionda, gli occhi azzurri, la pelle chiara, sicuramente allora, più facile. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo prima Bria Skomberg in un super classico intitolato My Baby Just Cares For Me e poi ne parliamo, va bene? Va bene, ascoltiamo. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. La voce di Liz Wright al sound check di Radio 24, nuovo album per lei intitolato Grace, ed è molto interessante questo recupero da parte degli artisti americani delle origini. Proprio oramai la chiamano Roots Music, naturalmente in chiave moderna e contemporanea. Anche il concerto, lo abbiamo raccontato ieri quando i nostri ospiti erano anche i Tinturia con Luana Alfino, che abbiamo assistito al concerto a Milano in occasione del Jazz Me, un bellissimo festival, alla performance splendida, unica, di Brad Mehldau insieme a Chris Tilly con il suo mandolino. E la musica che loro hanno proposto riproponeva il sound tipico delle origini, proprio dei pionieri, ecco perché quella è la cosa, è molto forte. Poi ascoltare l'improvvisazione di Brad Mehldau e il suono e il talento di Chris Tilly, che è considerato un vero e proprio genio in questo momento, non solo per la musica ma proprio un ragazzo fantastico, grandissime idee, grandissime emozioni in sala, insomma applausi a non finire. Hanno fatto addirittura 3 bis, ma noi vi parliamo invece di Liz Wright. Anche questo disco quindi recupera le origini, ci sono le origini proprio degli Stati Uniti e la passione vocale che viene fuori da questa bellissima ragazza. Anche Liz Wright vi piace, no? Fisicamente? Beh, sì. Sì, sicuramente. Capito? Figurati se Bomarzi dice di no. A te tu sei proprio, subisci il fascino proprio femminile in ogni caso, no? Musicista, devono suonare uno strumento, va bene. importante che suonino qualcosa. Allora, che tra dici l'altro di questo Liz disco è anche dedicato parzialmente al da poco scomparso Alain Toussaint. Ah, sì, infatti, grave perdita. Io ho amato molto la sua musica. Perché Liz Wright ha collaborato negli ultimi tempi. Torniamo sempre a New Orleans. Si torna sempre in Louisiana, in quella magica città, che è una città magica nel vero senso della parola. Succedono molte cose particolari. Sì, tantissime cose particolari e anche delle tragedie, purtroppo, perché è una città che ha vissuto tantissime tragedie nel corso della sua storia. Prima la schiavitù, ma poi più recentemente anche gli uragani che l'hanno stravolta completamente. E da New Orleans arriva anche una famiglia di musicisti infiniti, perché infinito è il talento, così come la preparazione di Wynton Marsalis. I fratelli Marsalis. Fratelli, ma tutta la famiglia, anche il papà, una famiglia di musicisti. Sono quattro fratelli, tutti bravissimi. Insomma, Branford Marsalis, sappiamo che sassofonista è eccezionale, grande compositore, un genio. Poi ci sta Delfaio, trombonista, il padre, e poi c'è l'altro, un batterista. Insomma, una famiglia incredibile. Si sono fatti la band in casa, possono fare dischi all'infinito. Ma Wynton Marsalis però ha dimostrato anche di essere un eccellente scrittore, perché ha scritto dei saggi e dei libri molto belli. Io considero How Jazz Can Change Your Life di Wynton Marsalis uno dei libri jazz più interessanti e accattivanti fra quelli pubblicati negli ultimi anni, e poi bravissimo anche nella direzione, nella gestione di tutto quello che succede al Lincoln Center, al Jazz at Lincoln Center di New York, dove lui continua a dirigere artisticamente un'orchestra favolosa che vogliamo adesso ascoltare qui al Soundcheck. Beh, che dici? Un intellettuale vero e proprio, Wynton. Meraviglioso Wynton Marsalis, guida Jazz at Lincoln Center Orchestra con Dick Hyman in un super classico. Bellissima questa versione, brano che ci riporta indietro nel tempo, ma brano registrato pochi mesi fa, e si intitola All of Me, al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Un brano scritto da Irving Berlin, diventato famosissimo però dopo la proposta cinematografica del film Frankenstein Jr., dove veniva cantato proprio dal grande Frankenstein sul palco, ovvero Puddin' on the Ritz. Qui però nella versione sorprendente realizzata proprio nel Groovemaster Studio, ormai quanto tempo fa lo abbiamo registrato il disco Bo Marzi? Poco meno di un anno fa, ma pubblicato il 14 ottobre, data indimenticabile per me per due motivi. Uno, perché è stato il mio compleanno. Secondo, perché il 14 ottobre, dopo un concerto fatto il 13 a Cava di Tirreni, mi hanno rubato la macchina. Quindi indimenticabile questa data quest'anno. Fatto sta che l'album di Dario De Ida, intitolato My Favorite Strings volume 1, abbiamo segnato il volume 1 apposta perché siamo pronti anche per registrare il secondo, ha scalato nel giro di pochissime ore la classifica degli album jazz più venduti sulla piattaforma di iTunes, è rimasto primo in classifica per settimane e ancora sale e scende, sempre presente nella top 10. Siamo pronti anche per la pubblicazione internazionale. La cosa assurda è che è stato anche nella classifica generale. Questa è una cosa incredibile, che un album fatto da un bassista con tutti i bassi e per più di un mese è stato presente nella classifica generale, arrivando nella top 20. Vuol dire che a volte sottovalutiamo il pubblico e comunque c'è tanta fame di buona musica. È vero, e invece non sottovalutiamo il talento di Dario De Ida e la preparazione dei migliori musicisti italiani nel mondo. Quindi vi consiglio di ascoltare My Favorite Strings e magari di acquistarlo, sempre per sostenere le produzioni italiane e l'arte di un grande musicista che presto partirà in tournée. Dove andrà? In giro per il mondo. In giro per l'Italia, per il mondo, perché in giro per il mondo con Kurt Rosenwinkel, il quintetto, con Mark Turner, quindi insomma sappiamo, però adesso quando si fermerà riusciremo a farci anche qualche... Lo incatenate di nuovo. E riusciremo con Sebi Burgi e Dario Panza anche a fare qualche concerto con il trio, quindi, di Dario De Ida in Italia. Direi di chiudere l'appuntamento del Soundcheck dandovi appuntamento a sabato prossimo, 19:15. Direi di chiudere con un altro brano. Sai che ha avuto molto successo la proposta che abbiamo fatto di Antonio Song di Michael Franks nella versione di Leo Sidran. Allora, direi di chiudere con qualcosa di veramente bello, un brano molto romantico scritto da Leo Sidran, dove chiede proprio la partecipazione di Michael Franks, che canta quindi una canzone, una composizione originale intitolata The Cool School, che poi è il titolo dell'album. E insieme questi due nuovi amici fanno tenerezza e mi emozionano molto. La canzone parla proprio della old school, della cool school, ovvero quella di chi ha fatto un certo genere di jazz con quella sonorità morbida che è sempre affascinante e anche sempre moderna. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti da Gegè Telesforo, grazie a Riccardo Bomarzi e a Francesco Tromba. A tutti voi buona domenica, buona settimana e buona musica.